Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Fuoco, legno, metallo, terra, acqua. Con quale di questi elementi vi sentite più in sintonia? Quale usereste per descrivere alcuni tratti fisici o psicologici? Una domanda, cari amici, intanto buongiorno, che non vi faccio a caso perché voglio suggerirvi oggi questo esercizio. Usiamo questi 5 elementi, possiamo usarli tutti o solo alcuni, per preparare il nostro autoritratto. Se avete bisogno di un piccolo aiuto per lanciarvi in questa sfida, noi ce l'abbiamo già in linea. Il professor Gianpaolo Perna, psichiatra, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto Menni ad Albese Concassano e professore all'Università di Maastricht in Olanda e a Miami. Buongiorno professore. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. 5 parole, 5 elementi per un autoritratto. Una sfida stimolante, intrigante, un po' difficile, ma direi conveniente, prof. Bene, vale la pena un po' di avere un po' di fantasia, anche perché questo è importante. Teniamo conto che il fuoco rimanda un po' al concetto di passione, di energia, usualmente. Il legno ha una certa durezza, ma anche al calore. Ricordiamoci, il colore del legno è un colore privilegiato per gli ambienti caldi. Il metallo è qualcosa di prezioso da una parte, pensiamo all'oro, o di resistente, pensiamo al ferro o addirittura all'acciaio. La terra invece dà un legame alle radici, al rapporto con la nostra realtà, la nostra vita concreta. L'acqua invece può essere qualcosa di fresco, no? Oppure qualcosa anche di cupo e torbido, o diciamo dà alla vita una caratteristica di insondabilità. Quindi, questi sono alcuni esempi che parlano un po' di noi, no? Lei ci ha dato già qualche dritta, professore, però provare a farsi l'autoritratto è, dicevamo, un'operazione conveniente, anche se magari alcuni avranno difficoltà a misurarsi con questo esercizio, non sapranno in quale elemento riconoscersi, altri invece ne useranno tanti. Come possiamo magari leggere questa nostra facilità o al contrario questa nostra ritrosia nel fare l'esercizio? Beh, sicuramente ci dice quanto noi siamo consapevoli o meno di noi stessi. Allora, conoscere quali sono le nostre caratteristiche, il nostro temperamento, il nostro carattere è qualcosa di importante per permetterci di adattarci meglio all'ambiente esterno. Ovviamente alcune persone tenderanno a rinunciare a questa sfida, forse perché non vogliono mettersi in gioco o scoprire se stessi, quindi talvolta è meglio fare come gli struzzi. Altri magari prenderanno uno solo di queste caratteristiche, mostrando una tendenza a essere un po' rigide, un po' orientate a vedere bianco e nero, e invece ci sono persone che si sbizzarriranno a utilizzarli tutti o quasi tutti, mostrando una buona capacità di vedersi a 360 gradi. Dobbiamo valutare poi magari se li leghiamo più ai tratti fisici o psichici, che dice? Sì, questo è importante anche perché bisogna capire quanto noi siamo aderenti al nostro corpo, che è la parte fondamentale dell'essere umano, o quanto siamo aderenti alla nostra mente. Sono due cose molto diverse, perché uno spirito pratico, fisico è un conto, uno spirito più intellettuale e conoscitivo è un'altra cosa. 800 24 00 24, se volete misurarvi potete naturalmente anche scriverci il vostro autoritratto sulla nostra pagina Facebook. Professor Perna, a proposito di autoritratto e di cervello. Ma io direi una domanda che possiamo fare ai nostri ascoltatori, una riflessione su cui possiamo poi legare anche il libro omaggio oggi, è il fatto che quale sia la parte del cervello coinvolta. Un po' tutti sappiamo che esiste una parte destra fatta in una certa maniera, una parte sinistra quasi più logica e razionale, abbiamo una parte anche frontale più razionale, una parte più emotiva, vi do alcuni aiuti. Però in generale la domanda è quale parte del cervello è coinvolta nel vostro autoritratto. Vediamo di premiare la risposta un pochettino più carina e un po' più aderente al vero. Il professor Perna si è sbilanciato, quindi un libro della libreria di Essere Benessere arriverà sicuramente, ormai il professor Perna ve l'ha dato e quindi volentieri. Professore, allora noi la richiameremo nel corso della trasmissione per raccogliere e farle ascoltare le telefonate dei nostri ascoltatori che si misureranno proprio su questa richiesta. Autoritratto in quale parte del cervello è scritta? Vi aspetto con grande curiosità. Grazie, professore. 800 24 0024, Facebook e Twitter. Ci siamo. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Fuoco, legno, metallo, terra, acque. c'è anche un'altra lettura di questi elementi che voglio proporvi oggi, una lettura che viene da lontano, da molto lontano, dall'Oriente, e ha milioni di anni. Ne parliamo oggi con il nostro professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano, nonché anche esperto del nostro Mangia con me. Buongiorno! Buongiorno a te Nicoletto, buongiorno a tutti. Professore, cinque elementi su cui lavoriamo oggi che ci permettono anche di parlare di salute. Sì, innanzitutto una cosa molto importante da rilevare è quale è la visione della salute da un punto di vista occidentale e da un punto di vista orientale. Non sono assolutamente contrari l'uno con l'altro, ma anzi sono assolutamente complementari. Mentre nella medicina occidentale la visione della salute è prettamente analitica e quindi osserva le funzioni organiche, fisiologiche, secondo un'attenta analisi razionale, per così dire, quella orientale è più metaforica. Deriva dalla capacità antica che avevano i cosiddetti medici della corte dell'imperatore di osservare le metamorfosi, proprio le trasformazioni della natura in relazione a quella che è la nostra salute. Quindi, per esempio, una cosa molto banale a dirsi, una situazione di siccità, di estate estremamente calda, veniva osservata anche nell'ambito delle funzioni organiche, laddove gli stessi sintomi di calore e di secchezza si ritrovavano in situazioni di sintomatologie, di patologie di questo tipo, quindi grosse infiammazioni. E oggi troveremo proprio delle corrispondenze tra medicina occidentale e medicina orientale. Ci facciamo aiutare dalla dottoressa Maria Giovanna Luini, scrittore, medico e comunicatore scientifico all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, che abbiamo il piacere di avere qua in studio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Occidente e Oriente si danno la mano, c'è una sorta di continuum. Sì, decisamente. Si stanno dando la mano in senso concreto perché da maggio 2012 si parlano di più le due medicine, anche se fosse un po' improprio chiamarle due medicine. Comunque, semplifichiamo. Sì. C'è una cosa che si chiama dichiarazione di Bologna, c'è stato un incontro a Bologna, a quanto pare medicina cinese e medicina tra virgolette occidentale si stanno parlando. In realtà non c'è troppo bisogno perché la medicina cosiddetta tradizionale, cioè quella occidentale, ha sempre guardato la globalità della persona, che è quello che fa un altro approccio, cioè la medicina cinese, mettiamola così. Il medico che conosceva la semeiotica, cioè guardava il paziente, lo toccava, lo ascoltava, magari lo annusava assolutamente, era capace di fare diagnosi guardando la globalità della persona. E faceva anche un'altra cosa, che era quella di mettere insieme mente e corpo. La medicina negli anni più recenti, grazie a uno sviluppo tecnologico notevole e anche importante, ha rischiato di perdere quell'associazione che esiste e che è imprescindibile, cioè quella tra la mente e il corpo. Mente e corpo stanno insieme. Questo abbiamo rischiato di perderlo, diciamo come concetto, però lo stiamo recuperando, quindi le due o più medicine si stanno parlando perché fondamentalmente chiamano le cose con nomi diversi, però forse ci sono già arrivate, hanno capito che la persona è una globalità, ha un corpo, ha certo tanti organi, ma mette tutto insieme, l'importante è che la persona funzioni. E stia bene, e mi piace questa lettura che ci ha regalato la dottoressa Luini. Ma professor Tirelli, andiamo a noi, di quale informazione ha bisogno dei nostri amici da casa per delineare la nostra tipologia? E soprattutto, una volta che, grazie alle sue indicazioni e alla sua, si può chiamare diagnosi? Valutazione. Ecco, usiamo bene le parole. Scopriamo di appartenere ad una tipologia piuttosto che ad un'altra. Lei come potrà aiutarci? Ci suggerirà degli esercizi? Sì, innanzitutto ci sono degli aspetti, un'anamnesi per una valutazione energetica e fisica al contempo è molto vasta, occuperebbe sicuramente due puntate probabilmente, però dobbiamo selezionare alcuni elementi proprio pratici per questa sintetica esposizione, per cui io direi che quello che mi interesserebbe sapere è innanzitutto se c'è una stagione nella quale gli ascoltatori si sentono particolarmente bene o particolarmente in fase down energetica. Sì. Le dico anche la mia? Certo. Estate? Benissimo. E questo già vedremo, è un indicatore inverno, importantissimo. Inverno a pezzi. Quindi la stagione più e la stagione meno. Poi? E poi se si ritrovano in un carattere, per esempio, principalmente espansivo o principalmente riflessivo, quindi introspettivo e quant'altro. Mm. Una cosa importante è anche la ricerca, per esempio, di un sapore. C'è chi ha una preferenza per il sapore dolce, chi per il salato, chi per l'agro, chi per l'amaro addirittura. Allora, il sapore che io ricerco è un tipo di energia di cui ho bisogno. E un'ultima cosa, se posso sentire, percepire di me una struttura fisica molto forte, contratta, per così dire, ipertonica, piuttosto che una struttura fisica un po' più lassa, un po' più dolce. Tronco o giunco? Ok, ecco, perfetto. Allora ripetiamo: stagione, sapore, struttura fisica, quindi flessibili oppure un po' più trugnetti, e carattere, introversi, estroversi, riflessivi. 800 24 00 24. Vedo che la dottoressa Luini se la ride. Sì, sì, mi piacciono molto. Mi sto chiedendo quali siano le mie tendenze. Io però so solo che sono fuoco. Ah, okay. Secondo me. E dopo vedremo bene. Tra l'altro, una cosa che volevo riallacciarmi a una cosa giustissima che diceva la dottoressa Luini è il fatto della trasposizione, della traslazione, diciamo, di vocaboli orientali e occidentali. Per esempio, non è solo questione di medicina cinese, anche nella medicina indiana, quando si parla di chakra, la funzione del chakra è la stessa che noi in Occidente vediamo nelle funzioni endocrine di ogni organo a livello endocrinologico. Quindi noi abbiamo questa situazione veramente di bellezza nel poter capire l'uno con l'altro che stiamo parlando la stessa lingua con diversi termini. Sono molto felice perché io ho tre ascoltatrici, tutte donne in attesa di parlare con noi. Teresa, Loretta e Carla, ecco le mie amiche. Teresa, buongiorno e benvenuta. Maria Teresa, grazie per avermi chiamato. Dunque, io volevo dire che mi sento fuoco per quanto riguarda la parte della passione che riguarda il cuore e nello stesso tempo anche l'energia in cui voglio fare le cose. E mentre terra per quanto riguarda il volere esplorare, questo riguarda di più il conoscere, il volere andare, il volere, ecco, conoscere di più l'ambiente, ecco, e quello riguarda più la parte intellettuale di me, diciamo. Vede che questo esercizio, giocando sui cinque elementi, aiuta, perché come ci anticipava il professor Perna, è proprio un esercizio di consapevolezza. Teresa, vuole provare a capire a quale tipologia può appartenere? Dice le cose che io le rispondo. Allora, vai. Allora, stagione. La stagione in cui si sente bene, allora, la stagione in cui fa... estate e peggio l'inverno perché è molto fredda. Ok. Carattere? Carattere, com'era le due? Introverso, estroverso, riflessivo? Sono molto sensibile e piuttosto timida, però a volte con l'età forse ho visto che tendo ad aprirmi un po' di più. Sì, ecco, la maturità porta anche questo. Sì, la saggezza. Il sapore che ricerca? Il sapore è dolce, mi piace. Dolce. Ah. E poi per quanto riguarda la struttura fisica, la percezione, prof, dico bene? Un tronchetto o un giunchetto? Tonica, però quando riguarda la parte affettiva sono molto giunca in quello. Ah, ho capito. Allora, professor Tirelli? È possibile magari iniziare a questo punto, collegandoci con la nostra ascoltatrice, a capire cosa si intende per elemento fuoco a questo punto. Certo. Fuoco, metaforicamente parlando, è tutto ciò che si espande, che va verso l'alto, quindi anche da un punto di vista fisico, ma poi la dottoressa Luini saprà dirlo meglio di me, è tutto ciò che mi porta quasi anche in eccesso, parlo, a una ipertensione, a una situazione pressoria eccessiva, tutto ciò che ha bisogno di espandersi, tant'è che il chakra, per così dire, la ghiandola endocrina maestra è la tiroide. Abbiamo bisogno di cantare, di esprimere, di dire le cose, altrimenti rischiamo un auto, diciamo, lesionismo da un punto di vista della chiusura di questo fuoco, che necessariamente deve andare verso l'alto. Come tutte le cose, c'è un eccesso, c'è un difetto, c'è un punto di equilibrio. Punto di equilibrio nella medicina cinese non è mai la staticità. È l'alternanza equilibrata di yin e di yang, come la nostra vita è sempre un'alternanza di respirazione data da inspirazione, espirazione, contrazione del cuore, rilassamento. Quindi non confondiamo l'equilibrio con la staticità. Dottoressa Luini, questo fuoco che cosa le dice? E questo fuoco mi dice l'iperattività. Una cosa molto interessante è che le malattie autoimmuni, cioè quelle in cui il corpo crea questi anticorpi diretti contro se stesso, contro un organo, sì, supponiamo la tiroide, possono essere controllate anche con la mente, quindi con il relax, con le tecniche di rilassamento e con l'attività fisica. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo nostro iperfare, nel caso per esempio, sì, della tiroide, può essere legato ad alcuni autoanticorpi, ma allora come facciamo? Facciamo in modo da avere l'equilibrio, come non solo con i farmaci, ma con altre tecniche che riguardano la mente. Professor Tirelli, per la nostra ascoltatrice, in quale tipologia possiamo farla, possiamo inserirla? Allora, è una tipologia, diciamo, bilaterale, nel senso che ha una componente di necessità di espansione del fuoco, quindi, sì, ha in sé questo fuoco potenziale, che però da un punto di vista emotivo viene un pochino così schiacciato, contenuto, da una difficoltà ad aprirsi, anche a livello affettivo. Quindi tutto ciò che è lo Shen, la S-H-E-N, questa parola bella che significa mente, cuore, spirito, ha bisogno di essere liberato. Laddove non c'è la libertà di espressione, di amare in questo caso, è un fuoco che rischia un contenimento. Quindi io credo che la nostra ascoltatrice sia fuoco nella sua radice, ma debba ancora riuscire ad espanderla. Un solo commento, per alcune terapie più globali, per esempio per i tumori, i pazienti vengono invitati a urlare, a picchiare cuscini o oggetti e a urlare, perché hanno bisogno di tirare fuori, di dire e di gridare. Loretta da Roma e poi Carla da Lucca. Loretta, buongiorno. Buongiorno a voi. Io mi sono riconosciuta subito. Subito? Nella terra, sì, nella terra, nel legno. Un pochettino nel fuoco, l'aria è solo se pulita, perché abitando a Roma non ho proprio la possibilità di fare un bel respiro, e, se non nei parchi, diciamo. Certo. E poi l'acqua allo stesso tempo mi affascina e mi terrorizza. Loretta, grazie per questa sua descrizione, che è un autoritratto partendo dai nostri elementi, ma fornisce anche al nostro professor Tirelli delle indicazioni. Beh, parlava la dottoressa Luini della necessità di gridare, di buttare fuori. Questo si rifà all'elemento legno. L'elemento legno è metaforicamente ciò che ha bisogno di muoversi, di adattarsi sempre alle situazioni, di crescere, di guardare avanti, la lungimiranza, la capacità di progettare, la capacità di guardare sempre obiettivi nuovi, e quando questo viene represso per varie situazioni può andare, quindi si parla di fegato, di vescica biliare, a lavorare negativamente su questi due organi, i quali a loro volta in una patologia, una situazione di disfunzione, possono causare che cosa? Ciò che troppo legno, sì, okay, può fare in un fuoco, cioè spegnerlo. Quindi il cuore anche, dal fegato alla vescica biliare, troppo legno, troppa energia, un cuore che soffre. Dottoressa Luini. Mi vengono in mente le crisi di bile, sì, che i medici di un tempo trattavano con il riposo, no? Mangia bene, mangia poco, bevi tanto e riposati, no? La crisi di bile. Adesso andiamo a cercare i calcoli, andiamo a vedere com'è la colecistica, che va benissimo, ma non è altro che la crisi di bile. E qualcuno la crisi di bile ce l'ha quando è arrabbiato e non riesce, sì, a dirlo. 800 24 00 24, voi ditelo voi invece, ci sono 5 elementi, vi abbiamo chiesto di raccontarci qual è la vostra stagione ideale, qual è quella in cui fate più fatica, di descrivere un po' il vostro carattere, di raccontarci il sapore che ricercate e anche di descrivere un po' la vostra struttura fisica, siete più tronco o più giunco. 800 24 00 24. Acqua azzurra, acqua chiara. Fuoco, legno, metallo, terra, acqua. Attraverso questi 5 elementi noi possiamo conoscere la nostra tipologia, sapere qualcosa di più riguardo al nostro benessere. Ve li abbiamo proposti anche in apertura insieme al professor Perna per preparare un autoritratto, per lavorare un po' su quello che i tecnici chiamano consapevolezza. Il professor Perna ci ha lasciato anche con una sfida parliamo di autoritratto anche nel nostro cervello, nella parte del nostro cervello scriviamo, sviluppiamo l'autoritratto, la consapevolezza di noi, emisfero destro, emisfero sinistro, la parte frontale, 800 24 00 24. Ma noi qua al professor Tirelli vogliamo chiedere acqua. Abbiamo parlato già di altri due elementi, torna l'acqua, che già in apertura abbiamo detto l'acqua può essere il torrente, quindi fresco, dare energia, ma l'acqua può essere anche lo stagno, cupo, profondo, anche la pozzanghera. Infatti ciò che nella medicina naturale, ma anche nelle altre culture mediche, non viene previsto, per così dire, è la stagnazione a lungo termine. Ci possono essere dei momenti di pausa, di stagnazione importanti, ma ciò che si ripercuote per troppo tempo in stagnazione porta a, osservando per esempio una pozzanghera, a imputridire gli elementi. L'acqua è l'elemento della sensibilità. La persona, la tipologia, principalmente acqua, perché nessuno di noi è un elemento, noi siamo i cinque elementi in cui vi sono delle caratteristiche, uno prioritario generalmente. Allora in questo caso la persona è sensibile, ha una capacità di sentire, ha una predisposizione per esempio anche nei colori, è il colore blu, è il colore dell'acqua, è il colore blu scuro, quindi tenderà spesso anche a preferire un tipo di vestito sempre di questo colore. Solo che il problema qual è? Che questa sensibilità può creare ricchezza, perché l'acqua è fonte di prosperità, però può creare anche una situazione di, come diceva il professor Perna, torbida, una situazione torbida, laddove quest'acqua diventa algida. L'acqua diventa quindi che cosa? Il ghiaccio, che ha poca vita rispetto al potenziale espresso dell'acqua. In questo caso i reni e la vescica urinaria sono organi generalmente un pochino più deboli rispetto ad altre. E noi, dottoressa Luini, siamo fatti d'acqua. Siamo fatti d'acqua, quindi tutto di noi è fatto di acqua. È un elemento importante per la nostra salute, per il nostro benessere, per il funzionamento di tutto. Pensiamo che, per esempio, una causa di morte, soprattutto nelle persone molto anziane, è la disidratazione. Oppure nelle persone che hanno qualche disturbo della glicemia, insomma, comunque la disidratazione può essere una causa di coma e di morte. Senza acqua non si vive. Reni e vescica per noi sono filtri, passa tutto attraverso reni e vescica. Il motivo per cui i medici dicono alle persone bevete tanto è che nella vescica, se c'è stagnazione di tossine che vengono eliminate con l'urina, allora si crea il danno. Quindi... Ecco, e ritorniamo a quello che ci anticipava il professor Tirelli. Carla da Lucca, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, sto ascoltando con grande interesse ciò che il professor Tirelli dice. Io con l'acqua non ho niente da spartire. La temo in tutti i sensi. Dal bagno in mare, no, faccio la doccia perché sono persona pulita. Ma l'acqua la temo proprio, che si tratti di pozzanghere, che si tratti di fiumi. Ciò che dell'acqua mi piace è solo il movimento. Quindi niente stagnazione, niente ghiaccio. Io, il mio elemento chiave è il legno. Legno perché il legno è marrone e caldo, come avete detto in premessa, ma soprattutto perché lo ravviso nell'albero che ha radici, perché sono una nostalgica e più passa l'età e più lo divento, ovviamente. E ciò che temo è il metallo degli altri, cioè siccome mi trovo molto giunco, temo, nonostante i miei 62 anni, temo molto il metallo degli altri. Quindi ogni tanto ho delle azioni istintive e irruenti che mi turbano, che non ravviso come mie. La primavera è la mia stagione preferita. Mentre la stagione in cui fa più fatica, Carla? L'estate, stranamente l'estate. Dove c'è l'acqua, la gente va al mare, fa il bagno, eccola lì. Molto faticoso, ecco, stavo, il sudare. Stavo pensando quanto, grazie Carla per il suo intervento, queste cinque parole attivano relazioni, connessioni, riflessioni. Andiamo a Patrizio dalla provincia di Trapani ed Alessandro da Parma, 800 24 00 24. Buongiorno Patrizia. Buongiorno, mi sente? Bene, sì, la sento, con un fischietto in sottofondo, vediamo? No, non c'è più il fischietto, credo. Patrizia, proviamo. Allora, io adoro l'estate. Sì. Poi? Impazzisco per il dolce, non ne posso fare a meno. Sì. Amo tutto ciò che è zucchero, tutto ciò che è dolce. Sì. Poi? Carattere? Poi il carattere è flessibile. Flessibile? Struttura fisica? Come tronco giunco, Patrizia, tronco giunco. No. Nel senso che sono mobile, giunco. Sì, giunco. Ma Patrizia mi sembra perfetta, professor Tirelli. Estate, sensibile. Che sapore dolce? Sì, allora, dunque, il sapore dolce è caratteristico dell'elemento terra, per così dire, quello che il medico cinese antico diceva, sì, è una persona con i piedi per terra, banalmente parlando, sì. Però in realtà molto razionale, che tende a mettere ordine nella propria vita. Ciò che appunto ha bisogno generalmente la persona che invece ha un deficit di questo segno è proprio compensativo con il sapore dolce. Quindi quando io ricerco ossessivamente qualcosa è perché ne ho bisogno per compensare altre cose. L'ascoltatrice di prima parlava invece di nostalgia. Nostalgia appartiene principalmente ad una situazione emotiva, mentale, che si rifà all'elemento metallo, o quello che chiamiamo aria. L'elemento metallo è molto più riflessivo. La stagione dell'elemento metallo è l'autunno. L'autunno che porta verso il terreno, raccoglie ciò che si è espanso durante l'estate e ha bisogno necessariamente di un momento di raccolta. Mentre per quanto riguarda la seconda ascoltatrice parlava dell'estate, va bene, l'estate è la stagione del fuoco, come l'inverno è la stagione dell'acqua, ma per quanto riguarda uno stomaco, per esempio, una milza, un pancreas, che hanno bisogno di maggiore attivazione o che sono invece particolarmente deboli, è il cambio di stagione quello che fa male. Quindi non si parla più di una stagione particolare, ma del cambio di stagione, dove lo stomaco viene spesso attaccato. Dammi tre. Intanto che voi ci fornite le informazioni utili per conoscere la vostra tipologia e provate anche a visualizzare il vostro ritratto in una parte specifica del vostro cervello o in più parti, non si sa, proviamo a misurarci ancora una volta con queste parole per allenare il nostro cervello. In linea con noi abbiamo il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari. Prof, c'è? Buongiorno a lei, buongiorno. Un saluto ai suoi illustri ospiti e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Neuropsicologo e presidente di Assomensana. Abbiamo cinque parole, legno, acqua, terra, fuoco, metallo, le abbiamo usate per comporre il nostro ritratto, ma lei ci proporrà un altro esercizio molto semplice, una sorta di allenamento per allenare e stimolare il nostro cervello e forse una particolare funzione cognitiva. Sì, vi proporrò di formulare una frase che deve contenere tutte e cinque le parole, quindi un compito ben preciso. Mentre per il vostro autoritratto avete dato libertà di usare alcune parole, io invece sarò più esigente. Le parole devono essere tutte e cinque, quindi legno, metallo, acqua, fuoco e terra. E la frase deve avere un senso compiuto. In più, se possibile, essere anche un po' stravagante. Sì. Perché? Perché questo esercizio? Che cosa ci rende, insomma? Perché in questo modo alleniamo diverse funzioni mentali, intanto la capacità di linguaggio, la capacità di concentrazione, anche la creatività, l'accesso al lessico, la capacità di pianificare, e attiviamo molte delle aree cerebrali, ad esempio le aree poste dietro l'orecchio sinistro, nel lobo temporale, il lobo frontale, quello che sta dietro la fronte, e anche l'emisfero destro. In più possiamo aumentare, diciamo, l'efficienza di questo esercizio se visualizziamo anche la storia che stiamo inventando. In questo modo chiamiamo in causa anche le aree visive del lobo occipitale, cioè quelle aree del cervello che stanno dietro la nuca. Senti Nicoletta, quante aree cerebrali si viamo mamma con un mia, esercizio? E quindi con cinque parole attiviamo praticamente tutte le aree cerebrali, è una ginnastica, il nostro cervello sarà distrutto. Ma molto allenato. Il cervello è molto allenato, infatti a me piacerebbe, ed è questo l'obiettivo di Assomensana, che la ginnastica mentale diventasse un appuntamento quotidiano per tutti. È un po' come succede con i nostri muscoli. Professor Iannoccari, a chi suggerisce questo esercizio? Io lo suggerisco ai nostri ascoltatori perché oggi, puntata ricca, micifico, abbiamo due libri che arrivano dalla libreria di Essere Benessere. Uno è La Guida al Benessere, che abbiamo abbinato all'autoritratto insieme al professor Perna, e l'altro è abbinato alla sfida, quindi una frase di senso compiuto ma molto creativa con i cinque elementi. commenti. Quindi io da parte mia posso dire provateci e chiamateci 800 24 00 24. A lei, professore, a chi suggerisce di fare questo esercizio? Intanto esempio gli scrittori e i giornalisti, così come gli insegnanti e gli avvocati, sono molto abili nel fare queste prove. Suggerisco però a loro di farlo per mantenere in forma queste funzioni cognitive, mentre consiglio vivamente questo allenamento a chi deve utilizzare il linguaggio in modo rapido e flessibile, ad esempio i rappresentanti, i professionisti, i dirigenti, i commercianti, gli attori e tutti coloro che vogliono mantenere attiva la mente. Quindi allenatevi e chiamateci per dirci la frase che avete formulato con i nostri 5 elementi. Deve avere senso compiuto e deve essere anche un po' passariella. Grazie professor Iannoccari, buona giornata. Eccoci qui, abbiamo Alessandro che ci chiama da Parma, Antonietta da Benevento e Amalia dalla provincia di Nuovo di Lucca. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Salve. Eccoci. Se io dovessi dire gli elementi con cui fare un ritratto, direi legno e acqua. Mm-hmm. Un sapore, me ne viene uno molto specifico, che tra l'altro nella medicina orientale, se non sbaglio, ha avuto un largo utilizzo, che è la liquirizia. Liquirizia. Per quanto riguarda la mia corporatura direi giunco. Sì, siamo tutti sa Alessandro, io non posso, no, non metto in dubbio, ma siamo tutti giunchi. Nessuno ha detto beh, io sono un bel tronchetto, il tronchetto della felicità. Siamo tutti giunchi. Va bene, quindi legno, acqua, liquirizia, autunno e giunco. Esatto, la stagione in cui mi trovo meglio è l'autunno, propriamente. Se dovessi dire un aspetto del carattere, probabilmente direi meditativo. Meditativo. Sì. Dottoressa Luini, a proposito di liquirizia, il nostro Alessandro dice ha avuto grande seguito anche nella medicina orientale, ma sulla liquirizia noi che cosa possiamo dire? Possiamo attenzione dire che chi esagera con la liquirizia rischia l'ipertensione, quindi la pressione arteriosa diventa troppo alta. Per la tipologia di Alessandro che si può riconoscere autunno in riflessivo l'elemento metallo, perché è proprio quello che tende a portarci dentro, a essere molto autoconoscitivi, e abbiamo bisogno però a volte di una sferzata, quindi il legno, la primavera, tutto ciò che è vento, dinamismo, quindi a volte il troppo ha bisogno del compensativo. Mi sta venendo un'ideuzza fresca fresca, professor Tirelli. Io di solito quando ho queste idee i miei ospiti sbarrano gli occhi perché dicono queste fuori. Allora ho pensato che potremmo preparare un piccolo video e consigli da mettere sulla nostra pagina, anche Laura Vanossi è un po' preoccupata, per suggerire esercizi per ogni tipologia. Perfetto, perché proprio questo serve a compensare fisicamente ciò che spesso emotivamente, fisiologicamente abbiamo bisogno. Quindi tutti i punti, sì, per il metallo, per l'acqua, per il fuoco, magnifico, mi piace. Antonietta da Benevento, buongiorno. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti in trasmissione, un abbraccio in particolare alla dottoressa Luini. Bene. Diciamo che il mio elemento chiave è l'acqua, e la, sì, mia stagione preferita è l'estate e la primavera. Quella critica, diciamo, l'inverno. Impazzisco per tutto ciò che è salato, mm-hmm, e sono una persona molto ma molto solare e positiva. Sì, mi piace. E sono un tronchetto. Oh, il primo tronchetto della trasmissione. Professor Tirelli, un consiglio di benessere al nostro tronchetto da Benevento? Allora, in questo caso è un'acqua che ha bisogno di essere tonificata perché ricerca il salato. A questo punto una cosa che bisogna fare è il contrario del tronchetto, situazioni di rilassamento, di respirazione, di autoconoscenza dell'aspetto elastico dei nostri muscoli, dei nostri possibilmente tendini. Allora, abbiamo il professor Perna che è tornato. Professore? Eccomi qua. Eccola, e abbiamo Michele che ci chiama da Padova, che mi segnalano dalla regia è pronto per individuare l'area cerebrale in cui noi possiamo sviluppare, percepire, scrivere, fissare, far il nostro autoritratto. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno, complimentissimi per la trasmissione, la seguo tutti i giorni. Bravo. Con il massimo dell'entusiasmo. Bravo Michele, lei sì che fa bene, mi piace molto, bravo. Professor Perna, Michele avrà sicuramente la risposta esatta. Michele, sì, dov'è? Allora, Michele, sì, dia la sua risposta. Qui. Io tifo per lei. Nell'area cerebrale. Ma dove? Destra, sinistra, centro? Professor Perna, lo aiuti. Sulla la parte della ragione o la parte delle emozioni? O l'insieme dei due? Michele? L'insieme dei due. Bravo, è giusto. Bravo! È giusto perché una personalità, un carattere equilibrato necessita da una parte della forza delle emozioni, quindi la passione, quindi ricordiamoci un po' quello che abbiamo detto all'inizio, d'altra parte bisogna anche di quella quota in qualche maniera di magari metallo un po' più duro, un po' più capace di controllare, quindi bisogna avere la giusta capacità sia di premere l'acceleratore che di tenere il freno a portata di mano. L'acceleratore spesso è la parte del cervello emotivo, quella più antica, più profonda, il freno spesso è la parte razionale. Avere uno, troppo l'altro ci mette in difficoltà, avere un giusto equilibrio ci permette di navigare bene nella vita. Perfetto, complimenti. Complimenti a Michele da Padova, soprattutto perché ci sente tutti i giorni, bravissimo Michele, a lui la guida al benessere, complimenti al professor Perna che ci ha fatto lavorare per il nostro autoritratto. Grazie professore. Arrivederci a tutti. Volevo ringraziare il professor Tirelli e la dottoressa Luini. Grazie, grazie, ci avete fatto fare un viaggio molto interessante. Silvana da Monza Brianza, chiuda con la frase. Sì, il fuoco ha incendiato il legno posato sulla terra e l'acqua uscendo dalla pompa di ferro lo ha spento. Grazie Silvana, andiamo ad Amalia dalla provincia di Lucca. Ciao, buongiorno. Veloce, Amalia. Sì, vi seguo quando non lo Sì, Amalia, vada, che se no allora, mi segano. Sento fuoco perché ho una passione, amo l'acqua, sì, perché mi dà senso di pulito, ma anche di sporco delle volte. Sono una persona molto altruista, mi piace donarmi agli altri, però quando penso di dover ricevere qualcosa e non questo non succede, rimango molto delusa. Ad Amalia, allora... Amalia e tutti gli ascoltatori, trasferitevi sulla pagina di Facebook Essere Benessere Continua. A domani.